Baciami a metà, tra una cicatrice e il buio, per il più dolce tradimento, tra due palpebre socchiuse, ho già tradito ogni mio intento, per consolare le tue ciglia, così fedeli alle mie labbra. E ho attraversato primavere nascoste in corpi di donna, e avrei voluto rimanerci come la più tenera condanna. Quando la differenza fra chi bacia e chi spara è un sipario che cala verticalmente a metà, forse solo al momento in cui ci si separa ci si strappa un abbraccio in profondità, perché resti un pezzo di radice dentro ogni metà. Cambia nome, non voltarti indietro, per non farti trovare da ogni tua lacrima. Ma prima o poi una mano ti afferra al centro, per farti risputare a calci l'anima. Ti cerco in ogni mia storia, castagna sotto ogni foglia, per non lasciarti lentamente affondare, per strapparti alle pieghe di sogni senza gloria e farti volare lontano da rovistare nel mucchio della memoria, mendicante di vitalità. Quest'aria nuova che ti toglie il fiato si chiama libertà. Impiccami a metà, tra un assaggio e un sorso, spacca la ruvida corteccia senza rimpianto né rimorso, sfoga su me ogni rancore, ma riempi di nettare le labbra, perché la gelosia rende cieca la bellezza. La mia è una lunghissima carezza su mille più pelli diverse, fedele io sempre lo giuro, come una nuvola al suo cielo. A volte anche la morte offre una via di salvezza, se la vita è un artiglio che scende senza pietà. Quando non puoi reagire a un graffio o a una carezza, poi avverti a pelle la cruda realtà, che hai tradito più di quanto credi la tua identità. Tira su col naso e fuori il mento, e spingi in fondo agli occhi ogni rabbia e lacrima. Ma prima o poi qualcosa punta i piedi dentro e improvvisamente ti inchioda l'anima. Ti cerco in ogni mia storia,